Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 9 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero e prima di introdurvi all'argomento di oggi vi ricordo intorno alle 11.40 la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra Modigliani in Altissimi di Montparnasse a Palazzo Reale a Milano, catalogo e anche biglietti d'ingresso, ammesso che riusciate a risolvere l'enigma. Ovvero adesso vi faccio sentire una canzone, un pezzettino, e voi dovreste riuscire a capire cosa hanno in comune la canzone che tra poco ascolterete e Modigliani. E si gioca alle 11.40 circa, ecco la canzone. Just walk away. Just go, my love. Forse avete riconosciuto la voce di Karima, Just Walk Away, questo è il titolo del brano. Cosa hanno in comune questa canzone e Modigliani? Dovete dirmelo più tardi. Il numero per partecipare è 800 24 00 24, dovete chiamare fin da adesso per prenotarvi e poi invece giocheremo, ripeto, verso le 11.40. Ma veniamo a oggi, alla puntata del riposo del guerriero, che oggi si occuperà di movimenti. Cercheremo di capire cosa sono i movimenti, o meglio da cosa nascono i movimenti. Racconteremo anche di alcuni dei movimenti più importanti, più popolari, quelli che hanno segnato, beh, tutti i movimenti poi in qualche modo segnano, anzi devono farlo, le società. E vorrei capire anche da voi se avete un movimento che vi piace in modo particolare, se vorreste fondarne uno, perché no? Avete un'idea che volete proporre, volete fare in modo che qualcuno si associ alla vostra idea per portare poi nel mondo e farla conoscere. Di questo parliamo con i nostri ospiti e tra pochissimo anche col vostro intervento. Vi ricordo il numero per i messaggi: 349 238 6666. Quando ho pensato ai movimenti, io non so perché a me è venuta in mente questa canzone. Vibra sotto pelle, eccitando, eccitando, picchio sempre forte, non mi arrenderò, andare un po' più su. Of me, show me the way, oh, show me the way, hey, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, boom, boom. Io quando ho pensato ai movimenti subito mi è venuto in mente Andamento lento di Tullio De Piscopo. Pino Casamassima, buongiorno, ciao, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi. Secondo te perché mi è venuta in mente questa canzone quando ho pensato ai movimenti? Beh, forse perché c'ho dentro movimenti nel testo? No, non, andamento non lento, quello, andamento sì, lento. Sì, un gioco di parole. Vieni con me. Un gioco questa, di parole. Questa. Allora, Pino Casamassima ha pubblicato da pochissimi giorni Movimenti, dagli indiani metropolitani agli indignati, le mille stagioni della rivolta globale, edito da Sperling. E è stato pubblicato da poco, tu ci hai messo più di un anno per scriverlo, pensarlo, ci hai messo molti anni ovviamente. E quindi in tempi non sospetti, diciamo. Sicuro. Così, perché adesso Sicuro. La parola movimento muove veramente il ragionamento e il pensiero. Sì, sì, sì. Senti, io volevo cominciare allora, tu proprio il libro parte in quarta di copertina con una frase di Jürgen Habermas da Storia e critica dell'opinione pubblica, e dice questo: la società civile è composta da quelle associazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza suscitata nelle sfere private di vita dalle situazioni sociali problematiche, per poi trasmettere questa risonanza amplificata alla sfera politica. Sì. Qua si racconta tutto con questa frase. È una frase lapidaria, sì. È una frase esaustiva, è una frase che di fatto io non a caso l'ho messa, per la semplice ragione che era capace di veicolare immediatamente il senso del movimento. Un senso spesso e volentieri frainteso, a cominciare dall'ultimo movimento in auge in questi giorni, no? Drammatici. Che è quello del Movimento 5 Stelle. Dico drammatici per la semplice ragione che non si vede ancora una via di uscita per un Parlamento in fieri e in Costituzione. Allora, il Movimento 5 Stelle, allora buttiamo subito questa provocazione immediatamente. Ecco, aspetta, lo facciamo così. Allora, sì, tu sì, hai sì. detto che lo si interpreta male il Movimento, sì, giusto? Sì, quando sì, si pensa sì, al Movimento 5 sì. Stelle. Il riposo del guerriero. Ecco, ripartiamo allora da questo: perché si interpreta male la parola movimento per quanto, quando si pensa al Movimento 5 Stelle, secondo te? Male perché non è più movimento, è un'organizzazione politica. Non lo chiamo ancora partito per evitare di ricevere una serie di contumeli da parte dei militanti del Movimento 5 Stelle, però di fatto è così, non è più un movimento ma è un partito, perché ha tutte le caratteristiche. Ecco, no, perché tu dici il movimento di solito si occupa di una cosa, sì, e sì, cerca, sì, di portare alla politica, ovviamente, quindi di portare voce, amplificare la voce su un argomento specifico, sì, una cosa sola. Sì, il movimento Notav, sì, il movimento Nodal Molin, ad esempio, per citarne due. Sono dei movimenti che hanno degli obiettivi molto precisi, no? E intercettano un malessere che è trasversale a livello politico all'interno dei movimenti stessi. Cioè all'interno del movimento Notav noi possiamo trovare delle persone che hanno un'estrazione comunista piuttosto che liberale, piuttosto che cattolica, mentre in genere il partito ha un ventaglio molto più ampio d'azione, perché si occupa di più cose, no? Il movimento invece ha una cosa specifica da portare a compimento. Ecco perché. Ecco, tra l'altro, io adesso leggendo il tuo libro scopro anche, poi sono quelle cose che tu puoi anche ragionare da solo, poi le leggi e ci ragioni di più, no? Ovviamente. E spesso i movimenti sono stati associati anche a fazioni politiche, ma erroneamente, perché in realtà non hanno appunto una connotazione politica vera e propria, non sempre quantomeno. Perlomeno poi si trasformano. Nascono come movimenti e, sì, poi si trasformano. Quindi spesso poi vanno in una direzione. Facciamo politica. Un esempio concreto. Sì. Facciamo un esempio. Sì. Siamo a Milano, sì, regno del movimento studentesco, sì, del 68. Bene. Nel momento in cui il movimento studentesco si trasformò in partito, morì. L'MLS si trasformò in Movimento Lavoratori per il Socialismo. No? Il movimento studentesco non esisteva più, perché aveva perduto tutti i suoi connotati di base. Quindi il movimento deve rimanere tale, deve rimanere per poter tale, continuare, certo, a vivere. Luca Pollini, buona domenica. Ciao Luca. Buona domenica, buongiorno a tutti. Giornalista e scrittore. Luca Pollini, fra l'altro, ha collaborato con Pino Casamassima, avete lavorato anche insieme. Allora, siccome adesso Pino ha citato il 68, e tu nella tua biografia, Luca, quella che troviamo in retrovisore.net, che è un interessantissimo blog che consiglio di leggere, a un certo punto tu dici: rimpiango il Parco Lambro, inteso come festival. Mi è venuto in mente Re Nudo, esatto. Dico bene o ecco, dico bene. Dici okay. Benissimo. Sì. Su Pino sono pienamente d'accordo, cioè c'è da diciamo fare una bella differenza fra movimenti e organizzazioni politiche. Sì. Noi pensiamo, faccio scusate un passo indietro per poi arrivare al Parco Lambro. I giovani come categoria sociale nei primi anni 60 non esistevano. Quando sono iniziati a esistere? A metà degli anni 60, grazie al movimento hippie. È stato il primo movimento giovanile mondiale. Da noi, quando è nato, intorno al 66, quando esiste, si forma il movimento Beat tra Milano e Torino, e i primi segni erano i capelli lunghi, camicie colorate. Ovviamente i giornali, facile perbenismo, tutti, allarme, emergenza giovani, si sono accorti che c'erano dei giovani, ma questi giovani cosa volevano? Pacifismo, ricordiamoci che si era in piena guerra fredda, sì, in Vietnam, pacifismo, antimilitarismo, diritti civili, la scuola, il libero amore, la critica alla famiglia, si scappava di casa. E da lì, però, cosa è successo? Che da noi si è buttata subito in politica. Infatti nel 67, l'anno prima, quando proprio a Milano ci fu la famosa Barbonia City, che altro non era che un campeggio di pacifisti, di giovani che si erano avevano piazzato le tende in un campo di via Ripamonti e che il comune ha sgomberato, da lì è iniziato a partire l'autunno del 67 e si iniziarono a occupare le università, quindi la si buttò subito in politica. Poi l'altra svolta sono stati i primi anni 70. Nel 69, attenzione, Valcarenghi fonda Re Nudo. Sì. Divengo da te. Re Nudo, che è stata la prima rivista, che poi sull'onda del Festival dell'Unità, Festival dell'Avanti, Festival di tutte le feste politiche, ha fatto il Festival di Re Nudo al Parco Lambro nei primi anni 70. E dove nei primi anni 70 si è visto il crollo dei valori e delle illusioni di quegli scontri prima fisici che politici, diciamo, tra ideologie di destra e sinistra, e dopo la fiammata 68esca i giovani dilaga un senso di insicurezza. Da lì inizia a farsi strada il consumismo, perché l'oggetto diventa simbolo d'appartenenza, è da lì che iniziano a nascere, diciamo, i movimenti dove tu li identifichi per un oggetto. Da lì, nei primi anni 70, c'erano, se vi ricordate, i San Babilini. Ecco, infatti, scusa Luca se ti interrompo, ma per l'interazione con Pino Casamassi, che mi sta dicendo, ho da dire, e molto anche, perché io mi sono letto anche con molta attenzione, ovviamente un capitolo che mi riguarda, io sono del 64, per cui ho vissuto gli anni 80 e gli anni 90, quindi i paninari, gli certo. Lupi o gli appi, che dir si voglia, e da lì, esatto, dove esatto. L'oggetto diventa. Proprio, e tu, Pino, lo definisci un po' l'epoca del disimpegno, invece. Quindi esattamente contrario a quello che è successo prima. Esattamente il contrario, sì, è riflusso, no? Il riflusso del post 9 maggio 1978, che è uno spartiacque, come io l'ho definito nel mio libro. Vorrei tornare un attimo sì. al concetto di festa che ha accennato prima Luca. Il concetto di festa è il concetto di festa che trovò in Parco Lambro l'espressione. Sì, in Italia, forse partiamo esatto. da Woodstock, sì, no? Sì, poi sì. da lì in poi. Sì. Noi giocavamo a fare Woodstock. Esatto, sì, sì. Beh, però aveva avuto un grandissimo successo. Un grande successo. A dire nudo. Io a pagina 192, sì. quindi cito sì. perfino la pagina. Bravo. A proposito di quello che Luca ha detto prima. Scrivo, sarà proprio la musica a pagare il dazio più alto nel momento in cui diventerà ufficialmente organica al movimento, intendendo ormai per movimento l'ala vincente dell'autonomia. Quella più dura, quella che nel convegno contro la repressione di Bologna sconfiggerà l'ala creativa. C'era l'acca di chiusura della lettera spedita a futura memoria dei movimenti del Parco Lambro di Milano, dove nel 76 si era consumata nel peggiore dei modi la fine della festa. Ecco. Sì, e sapete cosa è uscito l'anno dopo? La febbre del sabato sera. Certo, sì, quindi proprio abbiamo ribaltato completamente il fazzoletto. Assolutamente, siamo perché ci fu il travoltismo. Sì. Che venne ovviamente il PC, no, Pino sarà d'accordo con me, non si accorse, perché se un tempo nelle piazze ci andavano migliaia e migliaia e migliaia di persone e di punto in bianco non ci andò più nessuno, dove erano? Ma il PC, erano tutti in discoteca. Lo sai Luca, no? Che il PC storicamente no, non si è mai accorto di quello che succedeva. Secondo me, l'idolo della nuova classe operaia. Sì, perché sì, sì. era un cameriere, cioè, sì. non capito qual è il problema. Sì, beh, il cameriere che poi può invece a un certo punto riscattarsi attraverso la fisicità. Sì, cioè, e questa è la grande rivoluzione. Sì. La grande rivoluzione è la fisicità che impone la sua presenza dopo una buriana di esatto. idealismi che si sono consumati nei due decenni precedenti e che hanno trovato la loro fine nello stesso bagagliaio in cui viene depositato il cadavere di Aldo Moro. Si arrivò stremati alla fine degli anni di piombo e ci fu una guerra civile in quel decennio. Attenzione, io a questo punto devo sempre, proprio per contratto con la mia formazione, ribadire un concetto di fondo, che è la non demonizzazione degli anni 70. Perché gli anni 70 non sono stati soltanto stragi e anni di piombo, no. ma sono stati anche il deposito istituzionale di quelle che erano le effervescenze che erano bollite nel decennio precedente, vale a dire il divorzio, vale a dire la spedalizzazione dell'aborto, vale a dire l'obiezione civile, vale a dire la chiusura dei manicomi. Io credo che questo però non si dimentichi, francamente. Stefano, volevo dirti sì. una cosa. Sì. Cioè, a differenza di oggi, per tornare poi ai nostri anni di oggi, certo. da metà degli anni 60 a, diciamo, i primi anni 80, ci fu una susseguirsi di, come diceva Pino, cioè di novità musicali, artistiche, sociali, politiche, che oggi non si riscontrano. Allora, io vorrei, il programma durò un'ora e ho tanti altri ospiti, bisognerebbe parlarne per molto più tempo. Ho due domande però da fare entrambi, ovviamente, a te Luca, che sei anche un esperto di musica in questo senso, e Pino. Due domande, la prima è questa, proprio questa effervescenza musicale, no? Che è arrivata fino agli anni 90, poi dal 2000 in poi cosa è successo dal punto di vista musicale? L'effervescenza si è spenta oppure c'è e non me ne sto rendendo conto io? Vado io? Sì, sì, vai. L'effervescenza si è spenta. Ecco, senti, okay. Ma sai perché? Perché sei troppo non sono io che sono vecchio. Quindi, no, assolutamente. E c'è troppa offerta. Cioè, io, te e Pino, io ci metto tutti nello stesso calderone, diciamo, sì. si aspetta aspettava l'uscita del disco. Bravo. Come no, si certo, comprava il disco, ma cambiava, si usava la copertina. Ma li cambia anche il supporto. Il supporto bravo, fa tutto. Esatto. Ma no, questo infatti, l'ho già detto guarda, in tante altre puntate. si rischia di ripetersi, ma è così. Ma va bene. Adesso l'offerta che può avere mia nipote di 20 anni. Cioè, signori, adesso lei è bombardata dalle notizie. Ecco, allora torno a lei, c'è l'altra domanda, no? Siamo partiti, e siete anzi partiti, raccontandoci la bellissima nostra storia, e il fatto che i giovani finalmente a un certo punto riescono ad avere voce, perché prima non sembrava non esistessero. Oggi siamo tornati, o stiamo tornando a quello, con il Movimento 5 Stelle a questo punto, visto che pare che non è così, però da quello che uno sente in televisione, in televisione, pare che l'abbiano votato solo i giovani, ma sappiamo benissimo no, che non è vero, no. Però di quello si sta parlando, sì. Quindi è un modo per far tornare in vita, diciamo, quei giovani che invece negli anni 80 e 90 non avevano i pensieri se non il guadagnare e... Ma non solo i giovani, non è una questione anagrafica, okay. È una questione politica. Il Movimento 5 Stelle, al di là di qualsiasi pensiero si possa esprimere positivamente, no, vabbè, ma non è la sede, non è il caso, né voglio farlo nemmeno, ma ha un merito, che è quello di avere recuperato al voto nella misura del 37% delle persone che non andavano più a votare da 20 anni, cioè poste 100 persone che non andavano più, sì, a votare da 20 anni, ne ha recuperate 37, pescando peraltro poi in un elettorato che è trasversale, assolutamente trasversale, sì. Come testimoniano i numeri. Ora, questo è sicuramente un fatto positivo, è un laboratorio in itinere, secondo me non sanno nemmeno loro ancora con precisione quali sono i loro contorni, va bene? Però è una voce che si sta facendo sentire. Però una voce che si sta facendo sentire. Ecco, io devo dare la pubblicità, ma prima farei l'ultima domanda, Luca, scusami, perché è arrivato un sms, dice: negli anni 70 nasce il punk, infatti sì, il punk è un movimento importante, citato ovviamente nel libro di Pino Casamassima, e vogliamo parlarne, purtroppo non tantissimo, perché non ho troppo tempo, però è importantissimo. È vero, è nato in Inghilterra nella seconda metà degli anni 70, è stato importato da noi intorno all'82. Diciamo che lui, il punk era contestare totalmente la società di appartenenza, rifiutarne i valori e annullarsi, ed era l'esatto opposto del paninaro che citavi tu prima, sì. Cioè mentre il paninaro, diciamo, sono tutte e due comunque, la prima generazione post ideologica, quella dei primi anni 80, no? Cresciuti in un decennio di sangue, quindi poi alla fine loro ne escono così, o il paninaro che è il più autorevole rappresentante della società del benessere, che suo malgrado rappresenta l'unica moda giovanile italiana ad hoc, perché noi, mentre il punk noi l'abbiamo importato dall'Inghilterra, e loro appunto rifiutavano i valori e annullarsi nel nichilismo e nell'autodistruzione. L'abbigliamento era l'espressione, urlava la sua rabbia con la musica, con i suoi abiti strappati, il suo look che siamo un pugno nello stomaco. Ecco, Pino, serviva a far capire, a far aprire le coscienze sul fatto di quanto in realtà fossimo brutti, no? Quanto fosse brutta la società. La società. La società, infatti, esatto, io ho scritto, sì, a pagina 181, mamma mia, Pino, cioè, il mio rigore è noto, il movimento punk compie in definitiva il più generoso degli atti ribelli, attenzione, non rivoluzionari, quello di immolare se stesso, scarnificandosi nello spirito e nel fisico, in perfetta coerenza con un sistema che, parimenti ai giovani rampanti dalla parte migliore, fra virgolette, della società, quella che si riconosceva nei valori della City, produce scorie sconfinate nelle periferie, rifiuti umani fisiologici della società capitalistica. Trash, per dirla con il film di Paul Morisset, regista e figura importante della pop art. Ecco, tra l'altro, appunto, proprio trash nel vero senso della parola, ma è voluto. Ovviamente, e parleremo tra pochissimo anche con un nostro ospite dell'abbigliamento, perché poi tutti i movimenti spesso si caratterizzano con un modo di esprimere esteriore. Grazie Luca Pollini, vi invito a visitare il suo blog che è retrovisore.net, è molto divertente e anche interessante. Grazie ancora. Grazie Luca, voi, buona domenica, buona ciao. Il riposo del guerriero. Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi, come va? Benissimo. Allora, i movimenti si caratterizzano sempre da un modo di esprimersi dal punto di vista estetico, l'abbigliamento, e noi siamo così, abbiamo fatto un po' una retromagia, siamo andati negli anni 70 per arrivare a oggi. I punk li abbiamo un po' descritti, vuoi farlo tu con noi, vuoi aggiungere qualche elemento, Antonio, per poi ci sono i paninari, gli uppi, arrivare fino ai giorni nostri. Sì, ma diciamo che tutte quelle che oggi, no, si chiamano subculture, quando un tempo si chiamavano tribù e a cui magari abbiamo partecipato anche noi, sono una realtà molto presente, con una differenza che rispetto a 20, 25 anni fa o anche 30 purtroppo, sono molto più trasversali. Cioè, ad esempio, viene in mente il fenomeno degli emo, che non so se lo sapete, sono questi ragazzi, sono questi giovani che sono una declinazione, come dire, moderna di quelli che erano i dark, sono assolutamente internazionali, sono, perché il grande, diciamo, nuovo attore sulla scena internazionale di questi anni è stato ovviamente il web, e quindi grazie al web si creano dei nuovi gruppi, penso ai cosplayer, che sono quelli che si sono nati in Giappone ma si vestono un po' come cartoni animati, penso ai nuovi punk, i punk, poi come dice la canzone, punk's never dead, il punk non sono mai morti. Sono veramente, infatti ci sono raduni, ci sono convention, ci sono tutti i famosi ravers che vanno appunto ai rave e che costituiscono in qualche modo il fondale ideale per questo, per questi nuovi gruppi che appunto hanno come nome quello dei rave. Per cui io trovo che la differenza sia che ci siano sempre più frammentato il panorama delle subculture giovanili, ma contemporaneamente sia geograficamente molto più esteso. Ecco, Antonio, secondo te oggi, visto che il Movimento 5 Stelle si parla, non se ne può fare a meno, ma mi viene una domanda, c'è una caratterizzazione anche dal punto di vista dell'abbigliamento, a parte la mascherata di Grillo con il giubbotto, a parte quello che non si può andare in giro così, oppure non c'è, cioè nel senso che uno si veste come vuole perché non c'è nessuna caratterizzazione da questo punto di vista? Secondo te? Il movimento Grillino, non so, che comunque è un movimento molto importante, quindi di cui non possiamo assolutamente fare a meno oggi, credo che poi non abbia ancora delle caratteristiche estetiche ben riconoscibili, se non quelle del totale rifiuto al famoso, vi ricordate, il libro degli anni 90, No Logo, no? E quindi il totale rifiuto di tutto quello che possa essere in qualche modo legato a una grife, quindi legato a un multinazionale, legato a un discorso, come dire, di appartenenza anche a un ceto sociale, tant'è vero che loro si propongono come una sorta di movimento, chiamiamolo, se non di massa, comunque veramente anche qui trasversale, quindi non potrei dirti, sicuramente non li vedo né punk, ma contemporaneamente non li vedo vestiti come bancari. Appunto la felpa con il cappuccio, come dicevi tu, era un po' una provocazione, però sicuramente c'è tutto invece un richiamo a un vestire, un apparire che sia evidentemente antimoda, non so come dire. Sì, quindi deve essere stato molto chiaro, certo. Che quindi non rifletta le tendenze del momento, che quindi sia più confortevole che non bello, e che soprattutto non abbia nessun tipo di pubblicità attraverso delle etichette o distingue la propria la propria derivazione sociale o addirittura economica. Quindi mi sembra che solo questo lo vogliamo chiamare uno sportivo, lo vogliamo chiamare un... Sì, non lo si può catalogare comunque sì. Per ora un tranquillo ribelle, poi speriamo che rimangano tranquilli. Sì. Scusa, perché Pino voleva dire una cosa... Ma anche perché non c'è un segno distintivo a livello estetico, perché non c'è un segno distintivo come movimento. Esattamente, e anche perché, come abbiamo visto, tra i grillini c'è di tutto. Buono. Cioè dai professori... Certo, quindi non ci può essere un segno distintivo in questo senso. Anche perché ci sono persone molto diverse di età, non dimentichiamo mai che poi le tribù, le subculture hanno comunque, assolvono a una grande necessità, che è quella di rappresentarsi all'interno di un gruppo che ti fa sentire in qualche modo protetto, e quindi quasi sempre coinvolgono persone coetanee. Con Grillo abbiamo i settantenni come i 25enni, quindi sarebbe veramente impossibile dare loro un tipo di riconoscibilità estetico visiva. Antonio, secondo te dal punto di vista estetico, semplicemente l'abbigliamento, appunto modo di esprimersi, qual è stato il movimento che più ti ha affascinato? Ma allora, se mi è concesso fare l'autobiografismo, sì, un pochino, no, devo dire che me ne affascinano tutti. Personalmente quello che più mi ha preso, visto che ho avuto una gioventù piuttosto ribelle, era quello dei dai. Park, no? Vi ricordate? I Cure, eccetera, quindi, che era, come dire, una forma un po' più seria degli emo di oggi, quindi tutto il vestire di nero, quindi l'essere in qualche modo concentrati più sulla sostanza che non sulla, sull'apparenza, e quindi eravamo tutti molto pallidi. E poi dopo ahimè, siamo andati e poi sono arrivate le lampade dei pallinari. Tutta invece una tribù che invece a me, che io trovo estremamente divertente, che è assolutamente il contrario, che è quella che noi chiamiamo oggi dei posh, dei cool, quindi dei nightclubber, che sicuramente non è i nightclubber, ecco, questa non la conoscevo, sono quelli, ecco, che vanno in giro per discoteca, ma che poi si fotografano, no? Sì, e si pubblicano subito su Facebook. E dove diventa uno status symbol l'essersi fotografati in quella discoteca. Ecco, che però non nasce come movimento, è semplicemente un modo di catalogare un certo modo di essere, giusto? Sì, però passano ore e ore a trovare un... oggi si dice una parola orribile che è outfit, che non è più look, è un'altra cosa. L'outfit è il completo in cui, non so, mescolano il capo d'abbigliamento molto costoso con quello comprato al mercatino, con quello comprato nell'ultimo viaggio, al fine di essere il più possibile visibili. E questo devo dire che ovviamente come giornalista mi diverte molto, specialmente come giornalista di moda. Trovo che oggi ci sia però uno scambio di segni molto più forti. Ieri ho visto ad esempio una ragazza con una giacca meravigliosa, con un drago fantastico, le ho chiesto dove l'avesse comprata e l'aveva presa online su un sito neozelandese. E forse trovo che tutto questo sia in qualche modo un segno dei tempi e anche sì molto stimolante. Grazie Antonio Mancinelli, grazie, ciao, ci voi. Sentiamo presto, buona domenica, ciao. Pino, allora, tornando ai nostri movimenti, allora, a parte il Movimento 5 Stelle, sì, cosa sta succedendo adesso, nell'oggi? Di tutto di più, di tutto di più. Che però, movimenti ci sono? Gli unici movimenti catalogabili come tali sono quelli che ho detto prima, che hanno uno specifico interesse su un obiettivo altrettanto specifico e preciso. Parlare, ad esempio, come si è fatto prima, seppur sommariamente, di paninari, no? Sì. Non è stato un movimento quello di Paninari, no, è stato un fenomeno. Un fenomeno, è stato un certo fenomeno, no? Perché non si proponevano nulla. Si proponevano nulla, chiaro, se non ritrovarsi in Piazza San Babila a Milano, Corso Manforte, eccetera, sì, eccetera. Ecco. Per cui attenzione a blindare all'interno della categoria movimenti ciò che effettivamente è movimento e riconoscere quello che non lo è. Volevo tornare un attimo indietro sugli, sì, estetismi dei movimenti. Sì, come no? A proposito di tribalismi, a me piaceva moltissimo, mi affascinava. Gli indiani metropolitani, no? Che era l'ala creativa dell'autonomia negli anni 70, del 77, per questo loro modo proprio molto leggero anche, no? Di porsi esteticamente leggero, perché questo concetto di ritorno alla tribù pelle rossa, addirittura mascherandosi, no? Da pelle rossa, era una liberazione anche estetica, finalmente la festa portata in strada, fra l'altro in anni molto grigi, molto bui, tanto da essere catalogati come di piombo. Quelli mi affascinavano moltissimo, non ho potuto farlo anch'io perché avevo una famiglia molto rigida sotto certi aspetti e non avrebbe gradito. Allora oggi, grazie proprio alla rete, è possibile fare qualcosa, controllare quello che viene detto. Michele Kettmeier, buona domenica, ciao. A tutti, direttore della fondazione Haref, parliamo di fact checking, che non so se definirlo un movimento, forse non so se lo può essere o meno, però sicuramente è una tendenza, quella di cercare la verità, controllare i fatti di ciò che viene detto, no? E quindi la possibilità di verificare le notizie direttamente online, cioè il sito è factchecking.it, per cui quando viene detto qualcosa di importante, magari in una dichiarazione o in un'intervista, soprattutto da parte ovviamente della politica fondamentalmente che deve rappresentarci, subito è possibile controllare se quello che viene detto è stato, cioè è vero, oppure se invece non lo è affatto. Oggi la rete ci permette questo. Quante persone si affacciano al sito e partecipano cercando di controllare loro stesse la veridicità delle notizie? Guarda, la comunità inizia a essere abbastanza importante, parliamo, ci sono, spesso va a momenti, quindi durante eventi particolari, mi viene in mente quando Berlusconi è stato da Santoro, oppure altre cose, adesso senza entrare nello specifico, certo, della politica. gli utenti partecipano molto più attivamente. Tu all'inizio però ti ho detto la ricerca della verità, che è una cosa, sarebbe straordinario riuscire a trovare la verità, tanto che quello che il sito propone non è tanto la ricerca della verità, e qui entreremo in concetti epistemologici, sì. Tanto che abbiamo un paio di ricercatori della fondazione che studiano proprio il concetto di cosa è vero e cosa è falso. La cosa che cerchiamo di stimolare, di abilitare i cittadini a fare soprattutto, è di documentare delle affermazioni e poi ovviamente anche di dire se secondo loro sono vere o false. Però la cosa più importante, credo, in questo momento, se riusciamo a raggiungere cosa è vero o cosa è falso di un fatto, di una frase, di un evento successo, tanto meglio. Però il primo passo credo che sia quello di far capire alla società, alla comunità, che quanto è importante documentare con dei fatti delle tue affermazioni. Ecco, è il senso critico, no? che va un po' a mancare, e invece che deve tornare, cioè criticare quindi le cose, non darle per scontate alla fine, quindi verificarle. Esatto, questa è la cosa più importante, e documentarle, non fermarsi all'affermazione, per me questo è vero, senza supportare con dei documenti il più possibile autorevoli. La cosa che chiediamo di fare è quella di portare dei documenti autorevoli alle affermazioni delle persone, con un metodo, perché la cosa più importante probabilmente che ti permette un confronto dialogico e non scontro è quello di confrontarsi con un metodo e dichiarare l'imparzialità, l'accuratezza, il non conflitto di interessi, la legalità delle proposte che si fanno. Ecco, Michele, io volevo chiederti questo, non so se lo puoi dire dai numeri, insomma, forse una risposta un po' complicata o che non puoi dare, però volevo sapere se ultimamente, secondo te, le dichiarazioni che vengono fatte nelle interviste, in televisione, in radio, sui giornali, sono più vere rispetto al passato, cioè rispondono di più alla realtà dei fatti, oppure è come una volta, oppure si mente di più, non lo so, te lo chiedo. Non ho, è difficile rispondere a questa, infatti, immaginavo, a questa domanda. Quello che ti posso dire, sì, è che probabilmente i politici, ma non solo i politici, chiunque fa delle affermazioni, cerca di stare più attento. È un po' come il concetto di Wikipedia. Adesso viene sbugiardato molto facilmente attraverso Wikipedia, andiamo a degli esempi, sì, anche attuali, quindi probabilmente c'è l'attenzione di spararla meno grossa. Meno grossa perché il controllo è più facile. Il controllo è più facile da parte dei cittadini. Io credo che ci sia questa attenzione, però dati non ne abbiamo. Vabbè, chiaro, però insomma, già la risposta questa è molto chiara, perché comunque è una tendenza, no, a dire le cose come stanno, perché tanto sai che puoi essere sbugiardato in 4 e 48, esatto. Per cui bisogna stare un po' più attenti, e questo può fare soltanto bene. Io vi invito a non solo visitare, anche a far parte, se volete, di factchecking.it, perché e poi si è protagonisti attivi, cioè voi stessi potete così verificare notizie e dare le vostre informazioni. Grazie Michele Kettmeier, e buona domenica ancora. Grazie, ciao. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Visto l'argomento di oggi, è ovvio che gli sms non possono avere 160 caratteri, ne hanno 460, perché insomma le persone stanno raccontando, chiedendo, poi io li sto già leggendo, sono molto lunghi, abbiate pazienza, dopo il GR porrò le domande che avete fatto a Pino Casamassima, che però voleva dire, Pino. Sì, volevo dire che, riagganciandomi a quello che, sì, è stato detto poc'anzi, il cosiddetto direttismo, e cioè la democrazia diretta, senza la mediazione dei partiti, non è una trovata dell'ultimo momento, è una cosa sulla quale si dibatte da molto tempo. Pensa che ne aveva parlato addirittura negli anni 50 Adriano Olivetti, con un saggio bellissimo che si chiamava Democrazia senza partiti, anni 50. Mm-hmm. Lo stesso dicasi per quanto concerne ad esempio la rappresentanza sindacale. Paolo Cioffi, in un libro bellissimo, ha portato appunto alla ribalta questo problema, e cioè la rappresentanza del lavoro, e cioè una democrazia diretta anche all'interno del lavoro. Ma questi problemi, il problema della rappresentanza, è un problema vecchio come la Rivoluzione francese, nel senso che sono tre secoli quasi ormai che noi ci dibattiamo sul problema di fondo della rappresentanza. Ora, quella del Movimento 5 Stelle, per ritornare alla strettissima attualità, non è altro che un recuperare un concetto che si era andato perdendo nel corso dell'ultimo quarto di secolo, e cioè la rappresentanza alienata, i partiti eliminati. L'esercizio, ad esempio, del referendum, che è molto praticato in Svizzera, sì, è una forma di democrazia diretta. Ora, il Movimento 5 Stelle si è posto questo problema, il problema di scardinare completamente gli impianti, non novecenteschi, addirittura ottocenteschi dei partiti, per porre sul tappeto il problema di una rappresentanza, una testa, un voto, è un'espressione. Ora però bisogna vedere come evolve tutto ciò, bisogna vedere come si sviluppa, però è interessante come fenomeno. Io invito tutti a non demonizzare un movimento, anche se io per primo dico che non è più un movimento ma è un partito, chiamiamolo, è in medius totat virtus, diciamo in latino, chiamiamolo organizzazione politica, sì, così stiamo a testa alta, sì, una organizzazione politica che ha intercettato un consenso superiore ai 9 milioni di persone, di elettori, 9 milioni di persone. E allora bisogna cercare di capire, e assolutamente non è liquidabile con qualche battuta. Beh certo, questo è chiaro. Andrea Bertaglio, buona domenica. Salve, buongiorno. Ciao. Allora, tu rappresenti anche il Movimento per la Decrescita Felice. Allora, come movimento, essendo un movimento, quindi ci si propone ovviamente un pensiero da portare poi all'attenzione delle persone, arrivando fino all'attenzione di chi ci governa, no? In generale. Che cosa possiamo dire di questo movimento? Come è possibile sostenervi e che cosa vi proponete, ovviamente, Andrea? Sì, un movimento che è nato qualche anno fa, è nato nel 2007 e come dice il nome parte da uno spunto di riflessione che è quello insomma, per cui in un mondo fin dalle risorse finite non è possibile una crescita infinita, insomma questo sì, è l'origine del nome. Il movimento è strutturato in una ventina per il momento di circoli territoriali, sono chiamati, di persone che sul loro territorio appunto mettono in pratica i discorsi che adesso andremo a vedere e si può supportare diventando soci oppure donando attraverso il sito www.decrescitafelice.it che dà anche molte informazioni che non potremo ovviamente dare in questa sede. Non è un partito. No, è un movimento, infatti, Pino sì, tiene molto a questa caratterizzazione, a capire la differenza proprio, quindi è un movimento. È un movimento di persone che ha capito che la società dei consumi insomma sta avendo qualche problema e che... Io credo che l'abbiano capito un po' tutti, francamente. Infatti, poi associarsi a un movimento è diverso, però nel pensiero credo che sia abbastanza globale. Ecco, immagino il pensiero globale che sia così. È quello che appunto viene. È un momento un po' transitorio. Bisogna farlo proprio, poi, no? Ecco, sì, bisogna innanzitutto comprenderlo, perché vedo che è dal termine decrescita in avanti è molto frainteso come discorso. E adesso, visto che si parlava di Movimento 5 Stelle, permettetemi, anche abbastanza strumentalizzato, nel senso che stanno cercando da più parti, abbiamo visto in queste ultime settimane, di usare il discorso della decrescita felice fraintendendolo di proposito, cioè appioppandogli le caratteristiche di nostalgia della vita agreste, vita di spenti, tutte queste robe qua che non rappresentano. Ecco, diciamo le cose giuste, allora facciamo subito così. Sì, allora, adesso, perché è un discorso che richiederebbe un po' di tempo, però decrescita non vuol dire ritorno al carro, alla candela, alle caverne, non è un rifiuto della tecnologia, anzi... Non siamo Amish, questo è il senso. No, ma sono tutte balle, scusate, no, perché si sente questo nome e ti dicono, siete quelli che poi, quando hanno il mal di denti, però vanno dal dentista. Ci mancherebbe, non è contro il progresso, contro lo sviluppo, quando è davvero tale, è contro il fatto che se devo andare, ad esempio, dal dentista perché mi devo sistemare i denti, una cosa, se invece mi deve essere venduto qualcosa che non mi serve perché c'è da tenere in piedi il sistema dei consumi e della crescita, non siamo più d'accordo perché poi, come dicevamo poco fa, non funziona più. Quindi parte in questo senso. Poi ognuno la mette in pratica, la vive come meglio crede. C'è chi... ad esempio in questi circoli territoriali di cui parlavo prima organizzano molti corsi di saper fare, cioè dei corsi in cui gente normalissima si ritrova e reimpara a fare qualcosa, ma anche cose semplici come farsi il pane o riparare una bicicletta, cioè niente di trascendentale, soltanto un tentativo di iniziare ad emanciparsi da un sistema che non sta in piedi, perché Einstein diceva che non si può pensare di risolvere le cose usando le stesse cose che hanno generato i problemi, no? Adesso l'ho detta male, però avete capito. Quindi cercare di, non di, ripeto, ritornare a chissà dove o a dire che io per primo non ho mai nemmeno visto, ma vedere di fare tesoro di certi usi che sono stati imprudentemente abbandonati e appunto usare meglio la tecnologia, ad esempio, che abbiamo, cioè non, per passare ad un discorso di quantità, diciamo, a un discorso di qualità, cioè capire che di più non significa necessariamente meglio, e in questo momento c'è molto interesse perché molte persone si trovano ad avere di meno. Ma attenzione, un'ultima precisazione, sì, se no faccio un monologo eccessivo, decrescita non vuol dire recessione, adesso siete contenti, il PIL decresce, perché la decrescita contesta il fatto che il PIL sia preso come prodotto interno lordo, sia preso come metro di misura del nostro benessere, mentre cresce anche se facciamo un incidente o compriamo psicofarmaci o installiamo allarmi, quindi no, non siamo contenti, soltanto diciamo che anche se il PIL non sale non è necessariamente la fine del mondo, quindi recessione è quella che stiamo vivendo ed è come uno che non mangia perché non ha cibo, decrescita è quella che si prova a mettere in pratica un passo alla volta con calma, ed è come mangiare in meno perché ci si mette a dieta. Cioè in entrambi i casi si mangia meno, ma per motivi diversi. È una scelta, cioè, quindi cambia. C'era una domanda, Pino, per te. Sì. Avete soltanto però un minuto e mezzo, sì, quindi non so, magari rispondi dopo il GR. Vai. Velocissimo. Prima di tutto volevo chiederti se sei d'accordo con Latouche. Poi volevo chiederti se sei d'accordo con questo passaggio che io ho portato nel mio libro. Il movimento che sostiene la filosofia della decrescita ritiene che siano profondamente infelici, depressi, anche coloro che detengono la maggior parte delle risorse, per il carattere antisociale di una società innaturale che si muove unicamente sui binari della competizione e dello sfruttamento, architravi di un individualismo senza futuro. Sì, è un concetto molto profondo sociologicamente parlando, comunque sì, le rispondo, sono d'accordo nella maggior parte dei casi con Latouche e con questo, con questa visione, insomma, del mondo basato sulla competizione, sull'accaparramento di risorse, abbiamo visto spesso con la forza, e insomma quando si potrebbe benissimo fare a meno di usarne così tante, cioè decrescita felice vuol dire che, parlando ad esempio di risorse, invece che continuare per crescere economicamente ad andare a sfruttare sempre più risorse, usare sempre più energia, si cerca di iniziare ad usarla in modo più efficiente, non sprecarla. Certo. E magari avremo meno bisogno di andare a fare guerre o robe di questo tipo. Insomma, è un discorso, dicevo. Grazie, basso. Andrea, scusa, ti devo salutare. Grazie, decrescitafelice.it, c'è il GR. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Vi ricordo, più tardi verso 11:40 giocheremo con Modigliani 24 minuti. Vi do il numero per prenotarvi: 800 24 0024, per voi il catalogo della mostra e i biglietti d'ingresso. E oggi stiamo parlando con Pino Casamassima, giornalista, editorialista del Quotidiano Nazionale, saggista, ha scritto parecchi saggi, ne sta preparando un altro di cui non vi dico ancora nulla. Noi stiamo parlando di questo, appena pubblicato da Sperling, che è Movimenti, dagli indiani metropolitani agli indignati, le mille stagioni della rivolta globale. E volevo spendere due parole sul saggio di Pino Casamassima, perché davvero è molto interessante, e non lo dico perché ne sto parlando, ma perché è proprio interessante, soprattutto anche per chi ha vissuto determinati anni e li può rileggere guardandoli anche da un altro occhio. A me è successo così guardando i miei anni, no? Che sono gli anni 80, gli anni 90, sono quelli quando si hanno 20 anni, 18, 19 e si ha voglia di cambiare il mondo, e quindi è molto interessante leggersi. Grazie Pino, è uno di quei libri che bisogna leggere e rileggere, anche perché insomma è pieno di citazioni, hai non so quante pagine di rimandi, veramente sì. Tante. So che hai tagliato tante pagine. Sì, dal sì, un paio di centinaia di pagine, perché altrimenti mi avrebbero strangolato, il mio editor in Spelling mi avrebbe strangolato. Dovresti fare la collector edition tutta tua, cioè quella esatto, che tu avresti esatto, voluto pubblicare. Però in, sì. In digitale si può fare, penso, magari sì, non in cartaceo, sì, che costa sì, meno. Potrebbe fare, sì, potrebbe fare, però insomma... Usa la tecnologia. Sì. Il voto Grillo dice, i messaggi sono tantissimi e molto molto lunghi, li abbiamo letti durante il GR e la pubblicità, e il voto Grillo, al di là degli esiti, ha avuto il significato di voler ridare voce al paese reale di fronte alla sua concreta dimenticanza totale da parte di tutti i partiti tradizionali, come almeno è apparso negli ultimi mesi, anni, scandali quotidiani compresi. È quello che dicevamo all'inizio. Sì, Pino. Infatti, sì, sì. Ma questo messaggio ci dà il destro per poter ritornare un attimo sul problema dei cosiddetti dei partito e del movimento, no? Sì. I partiti, e lo dice qualcuno che se di democrazia se ne intendeva, visto che era Simone Weil, no? Diceva che i partiti sono delle macchine di passione collettiva che bisogna però usare con molta cautela perché tendono a schiacciare l'individuo. Ora, quando si parla, quando abbiamo anche prima parlato di partiti, attenzione, io personalmente non ne ho parlato in termini negativi, la negatività sta nell'uso che viene fatto del partito e come il partito poi si pone nel sociale, nel senso che cosa fa il partito del consenso popolare, che cosa ne fa, come lo spende, se lo spende per i suoi interessi personali, beh lì abbiamo assolutamente tradito lo spirito del voto e lo spirito del consenso, ma il partito di per sé non ha un'accezione negativa. Non mi sta bene nemmeno la cosiddetta locuzione antipolitica, bisogna stare molto attenti alle parole. Non credo che ci sia stata in nessuno degli elettori, dei 40 milioni di elettori che abbiamo in Italia, un sentimento di antipolitica, ma un sentimento di antisistema partitico, sì. Che è ben altra cosa. Sì, molto chiaro. Non a caso il Movimento 5 Stelle è forse nel panorama ultimo quello che più di qualsiasi altro partito agisce politicamente. Perché ha dato voce a chi fino a questo momento non l'ha avuta, o perlomeno chi non si riconosceva più negli impianti ormai polverosi di partiti che avevano più che altro, spesso e volentieri, la vocazione al tradimento. E non c'è bisogno che stia a fare degli esempi, no? Abbiamo visto quello che è successo nelle varie regioni in Italia, no? Non soltanto in Parlamento, ma soprattutto addirittura nelle varie regioni e nelle varie istituzioni dello Stato, che sono di fatto diventate dei nemici dei cittadini, non la loro espressione. Esattamente il contrario invece, il contrario di quello che dovrebbe essere. Che dovrebbe essere. Giorgio Oias, buona domenica. Buona domenica anche a voi. Allora, buongiorno. Giorgio è il fondatore e presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza. A me è piaciuto solo il nome, Giorgio. Sì, sì, grazie. Allora, andando a cercare i movimenti, e questo mi ha incuriosito, cosa dobbiamo fare? Essere più gentili in un momento in cui non lo siamo più? Come funziona, Giorgio? Ma diciamo che il nostro movimento è nato nel 2000. Stavo diventando presidente del Rotary quando il sindaco di Parma mi ha sollecitato a diffondere a Parma il principio rotariano. Molto semplice, mentre svolgi il tuo lavoro cerca di fare qualcosa anche per gli altri o per la società. Non facile da realizzarsi, però mia moglie ha scoperto che c'era il terzo convegno mondiale della gentilezza a Singapore. Abbiamo preso l'aereo e abbiamo scoperto che per loro la parola gentilezza significa anche senso civico soprattutto, e noi in Italia ne avevamo nel 2000 quando abbiamo fondato il movimento, tuttora e ne abbiamo da tempo un grande bisogno. Non c'è più senso civico, non c'è più rispetto per gli altri, non c'è più rispetto per le regole, per le istituzioni, per la cosa pubblica, che è diventata una cosa di nessuno anziché essere una cosa di tutti. E abbiamo fondato questo movimento. Diciamo che concretamente lo scopo che ci prefiggiamo in questa epoca, in questo contesto sociale, quindi l'obiettivo è quello di fare in modo che ci sia una profonda e concreta diffusione del senso civico e del rispetto delle regole, come dicevo, delle istituzioni, di tutto quanto. Guarda, ecco, abbiamo fatto una puntata intera del Riposo del Guerriero proprio sul senso civico in generale, no? E credo che però questa è una cosa che debba essere davvero un po' recuperata, e manca per tantissime ragioni, certo non possiamo adesso parlare dal punto di vista sociologico cos'è successo, cosa ci ha portati a questa indifferenza, chiamiamola così, però io volevo appunto parlare con te, Giorgio Aias, semplicemente perché mi sembra bello poter dire che esiste qualcuno che ci fa pensare al fatto di dover tornare a essere gentili. Tu, Giorgio, volevi anche dire una cosa sulle banche, perché dice: gentilezza non è soltanto una cosa delle persone, ma anche una cosa che può essere, anzi deve essere, delle istituzioni, o comunque sì, delle istituzioni. Sì. Oggi le nostre istituzioni non svolgono più il loro compito. Io sono un imprenditore, per fortuna non ho bisogno delle banche, per fortuna o per capacità non lo so, più fortuna che altro, ma sono circondato da persone che hanno bisogno. Le banche non fanno più prestiti, le banche cercano di guadagnare dei soldi dai soldi, cercano di utilizzare il risparmio che raccolgono in modo artificioso nel settore della finanza pura, anziché mettersi a disposizione e favorire la crescita dell'economia. Recentemente abbiamo discusso di questo argomento nel nostro consiglio, il consiglio del Movimento Italiano di Gentilezza, in cui fa parte diversi personaggi, anche autorevoli di Parma. Anzi, invito i vostri ascoltatori ad andare a vedere il sito. Certo, l'avrei fatto io, che è www.gentilezza.org. No, sì, oppure .it, stessa cosa. Abbiamo visto però, abbiamo discusso di questo argomento delle banche, no? Però ho visto, poi ho letto, che uno storico economista, Giulio Sapelli, rimprovera le banche la mancanza di un impegno verso l'economia reale e verso i bisogni sociali. Cioè c'è qualcun altro che la pensa come noi, che il sistema bancario oggi si pone uno scopo prioritario di investire i propri risparmi in modo artificioso e non per l'economia o per andare incontro a chi ha bisogno. C'è stato anche un altro, il presidente della Fondazione Culturale Banca Etica, non la conoscevo. Andate a vedere su internet, dice: le banche dovrebbero raccogliere risparmi dalle persone ed erogare i crediti a chi ne ha bisogno, diventando uno strumento, dice, necessario per lo sviluppo economico, non un meccanismo per fare soldi dai soldi, come dicevo, e nel più breve tempo possibile. Ecco, certo che c'è. Anche le banche hanno perso il senso civico, perché certo, hanno perso quel principio ispiratore, lo spirito e lo scopo originario. Infatti, Giorgio Aias, io credo che poi, se la gentilezza, chiamiamola così, parte dalle istituzioni, per forza di cose poi arriva anche ai cittadini, così certo. Funziona, è ovvio, quindi cerchiamo di muoverci. Mi piace molto il movimento che hai fondato, grazie Giorgio Aias, buona domenica ancora. Grazie, buona domenica anche a voi. Movimento Italiano per la Gentilezza, grazie. www.gentilezza.it. Il riposo del guerriero. Pino Casamassima, volevi appunto agganciarti a quel discorso che prima faceva Giorgio Aias. L'ultimo sì. Sulle istituzioni. È sintomatico il fatto che, oltre che curioso, che le istituzioni negli ultimi 30 anni siano rimaste le stesse, con le stesse facce, mentre sono cambiati i movimenti. Cambiavano i movimenti e gli interlocutori restavano sempre gli stessi. Cioè i giovani degli anni 70, i giovani degli anni 80, i giovani degli anni 90 hanno poi trovato come ribalta dalla parte opposta, no? Come interlocutori dalla la parte stessa opposta. Istituzione, ma non solo l'istituzione, le stesse facce. Le stesse facce. E questo ci deve far pensare. Deve farci pensare. Dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Del resto, se pensiamo che in Europa siamo gli unici di fatto a cambiare i nomi ai partiti mantenendo le stesse persone, e i Labour in inglese in Inghilterra hanno centinaia di anni, e invece in Italia noi facciamo il contrario, esattamente il contrario. Senti, poi vabbè, alcuni messaggi hanno citato il sistema svizzero, ma noi l'abbiamo citato sì. Ampiamente. Grazie per le cose che avete scritto, e non dovete scusarvi per i messaggi lunghi, fanno sicuramente piacere, invece vuol dire che il dibattito è aperto. Pino, hai un appuntamento da dare agli ascoltatori? Qualcuno vorrebbe incontrarti nelle librerie? Attenzione, perché mia moglie è gelosissima, quindi e quindi è così, se sì faremo, oddio sì, adesso facciamo così. Hai un sito? Sì, no, posterò su Facebook, ecco. Come faccio regolare. Allora cercate Pino Casamassima su Facebook, sì. E così tutte le informazioni le trovate lì, sì, e quindi in questo modo rispondi anche a chi ti scrive? Assolutamente sì. Ecco. Sì. A chi piace scrivere anche questo appuntamento odierno era stato ben pubblicizzato sulla mia pagina Facebook. Grazie davvero. Pino Casamassima, movimenti, complimenti, mi piacerebbe stare a chiacchierare con te, non lo faremo in diretta, ma lo faremo anche personalmente, perché è un piacere ascoltarti, e adesso sarà un piacere ascoltare anche la nostra Francesca Dragotto. Reason Cole in 8th 9th Senti chi parla. Oggi, visto che abbiamo parlato di movimenti, Francesca Dragotto, che saluto. Ciao Francesca, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Parliamo dei movimenti della lingua, nel senso che mi viene da pensare che spesso quelli che sono i gruppi sociali si possono identificare anche con un modo di parlare, un linguaggio, un dialetto. Sì, ogni movimento ha il proprio linguaggio e ogni appartenente a ognuno di questi movimenti deve barcamenarsi, si trova costretto a barcamenarsi tra la ricerca di un'identità individuale e la ricerca di un abito che consenta la riconoscibilità sociale. Ecco, questo poi non rischia però di così di fare in modo che qualcuno venga etichettato in qualcosa pur non essendo quella cosa lì, semplicemente perché ha una cadenza particolare. La normalità, si tratta di meccanismi conoscitivi che da una parte agevolano la nostra comprensione del mondo circostante, avere dei modelli di riferimento di sicuro agevola perché non ci fa partire da zero quando conosciamo qualcosa di nuovo, dall'altro il rischio è quello di non essere sufficientemente critici da vedere effettivamente la realtà e nei casi più estremi di finire per essere manipolati di chi sa agire bene, sa far leva bene su questi meccanismi. Ecco, facciamo qualche esempio delle cose che stanno così succedendo oggi, no? Per esempio il Movimento 5 Stelle ormai si identifica già in qualcosa, esiste già uno stereotipo o no, Francesca, secondo te, almeno dal punto di vista della lingua? Ma ce ne sono diversi, più che dal punto di vista linguistico, dal punto di vista comunicativo è di sicuro in atto il tentativo di individuare dei tratti, ad esempio penso a quello del complottismo, nella stampa dell'ultima settimana è stato fatto più volte riferimento a interviste rilasciate più o meno spontaneamente da aderenti al movimento che hanno parlato, che so, mi viene in mente il caso del microchip sottopelle. Ora è interessante il fatto che la stampa vada convergendo sull'identificazione di questi tratti che invece fino magari a poche settimane fa non erano prese in considerazione. Questo significa che si sta incidendo sull'identità sociale di questo gruppo. Dovremmo chiederci perché. Perché? Perché perché è chiaro che data l'importanza dei mezzi di comunicazione, frapporre un'identità mediata tra quella che è l'identità reale e quella che è l'opinione del ricevente, un futuro elettore se ancora non lo è stato, o comunque un elettore magari per protesta se già lo è stato, significa riuscire a avere maggiore probabilità di controllare, e non lo voglio usare nel senso del complottismo, ma comunque di controllare l'opinione della massa o di gruppi sociali più o meno ampi facenti parte della massa. Ecco, però questa uniformità, tra virgolette, no? Come nasce? Nel senso che come si identificano gli elementi che caratterizzano i gruppi? Cioè arrivano prima gli elementi e poi il gruppo, o arriva prima il gruppo e poi mano a mano si cercano gli elementi? Si tratta di un conglomerato, solitamente ci sono dei tratti che spiccano su tutti gli altri, a questi tratti se ne agganciano degli altri secondari, tutti insieme vanno a formare appunto quello che solitamente chiamo l'habitus. Habitus perché si tratta tanto di un modo di parlare, tanto di un modo di vestirsi, di comportarsi. Avete parlato dei paninari, termine che troviamo attestato per la prima volta o per le prime volte nel 1981. Ora, chiunque fosse giovane in quegli anni o chiunque seguisse i programmi della TV commerciale, anche senza conoscere esattamente il significato del termine, significato intuibile da paninaro per via della frequentazione delle paninerie. Sì, aprì il primo Burghi, quindi, che era la versione diciamo di McDonald's italiana, quindi il primo in Italia, in piazza San Babila a Milano, e quindi da lì poi nacque questo, chiamiamolo, movimento. Al panino ci si arriva, ma anche chi non ha conoscenza del legame tra panino e fast food, sicuramente avendo praticato un certo tipo di televisione, pensa alla parlata milanese, all'abbigliamento griffato, piumino stivali d'inverno, giubbetto di jeans con pelo, meglio d'inverno che non d'estate, oppure inclinazione al consumismo, al divertimento a ogni costo. E dal punto di vista linguistico, l'uso di espressioni quali essere fuori come un citofono, oggi i ragazzi di oggi tendono più a dire essere fuori come un balcone. Il significato però è sempre lo stesso, sragionare, oppure, non lo pronuncio con l'accento corretto, andare per il week a Curma, a Courmayeur, oppure la mia sfinzia al posto della mia ragazza, stare tranqui per stare tranquillo, diventato poi un tormentone grazie al tranqui funky, oppure i miei genitors per i miei genitori, oggi i ragazzi tendono a dire di arterio, cosa che non ci deve far piacere. Certo. Senti, tra l'altro in quegli anni io ero identificato catalogato, diciamo così, senza saperlo neanche, come uno yuppie o yuppie che dir si voglia, no? Semplicemente perché facevo il pubblicitario, ero molto giovane, mettevo le cravatte di Naio Leari, che erano quelle tipiche di un certo modo di vivere, diciamo, la Milano da bere, tra virgolette. Ecco, allora uno appartiene a un gruppo e c'è dentro senza neanche saperlo, e così viene identificato e automaticamente ci si autocataloga in quello. Come funziona? Beh, il gioco consiste proprio in questo. Da una parte, per il bisogno di appartenere a gruppi, specie se questi gruppi in una certa epoca sono dominanti in senso ampio, godono di un prestigio che può essere quello della presa sui coetanei, non necessariamente un prestigio a livello culturale o politico. Ecco, da una parte, per entrare a far parte del gruppo si tende ad imitare l'abito sociale del gruppo. Dall'altra capita invece che magari involontariamente, indossando anche dal punto di vista comunicativo un tratto tipico del gruppo, si finisca per essere catalogati come appartenenti a quel gruppo anche quando non lo si è, e questo è quello che è capitato a te. Ora, nel caso dei paninari non dobbiamo immaginare che il fenomeno sia rimasto circoscritto a Milano. Naturalmente, esportato in altre città, si è contaminato il paninarismo, termine attestato, si è contaminato con le realtà locali, dando così vita ai chiattilli napoletani, ai tozzi qui a Roma, ai mottarelli e ai bondolari di Verona, addirittura due fazioni, perché sia mottarelli che bondolari, i primi dal bar Motta davanti cui stazionavano, i secondi dalla bondola, quella sorta di mortadella che si mangia in Veneto, costituivano appunto fazioni ben distinte dell'unico movimento paninaro veronese. Allora, per chiudere ti propongo un falso spot che pubblicizza un istituto milanese che insegnerebbe in sole 24 ore a diventare dei veri milanesi. La tua vita è triste? Ti senti chiusa? Sei falso e cortese? Vivi in una città grigia? Sei torinese! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Iscriviti anche tu alla scuola per diventare... di Milano! Conoscevo questo finto spot, veramente bello, anzi invito tutti ad andarlo a vedere, il link lo metteremo sia sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero sia su Tuttopoli, e si tratta di un esempio di milanesità ricostruito da chi milanese non è, perché la milanesità trova la propria espressione nel panettone, nel duomo, nella camicia con cravatta corredata di telefoni cellulari, nei mocassini, oltre che appunto nel modo di parlare ritenuto tipico di certi ambienti sociali della città. Lo stesso potremmo dire per i vari Cumenda che si sono succeduti dagli anni 80 fino ad oggi. Per chiudere, senza dilungarmi, vi invito ad andare a consultare la mappa degli stereotipi. Un artista infatti si è preso la briga di raccogliere tutti quanti gli stereotipi diffusi in Italia e nel mondo, stereotipi che naturalmente le varie popolazioni hanno l'una nei confronti degli altri. Allora, oltre all'inglese snob e con la bombetta, all'americano in ansia perenne da rischio di attacco terroristico, abbiamo il tedesco mangia patate, il francese mangia rane, che però visto dall'americano diventa il maleodorante, e così via dicendo. Passiamo anche ai singoli cittadini di un paese europeo che vedono gli altri europei. Gli italiani sono così, ad esempio, dagli inglesi sono visti come pensionati rinsecchiti o grossi mangiatori. L'esperimento è stato già visto da più di mezzo miliardo, non milione, gli utenti, e spero che voi possiate essere i prossimi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. La domenica è il momento giusto, per la famiglia, per mettersi intorno a un tavolo, aprire una scatola, spesso aprire anche un tabellone, lanciare i dadi, non sempre ci sono ma spesso sì, e distribuire le varie carte e cominciare a giocare insieme ovviamente al nostro ludologo. Ciao Andrea Ligabue, buona domenica. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Allora, parliamo di movimenti oggi, e anche nei giochi tante cose si muovono. Esatto, io diciamo i giochi di cui parlo oggi, ho preso spunto dai movimenti, ho preso due giochi in cui diciamo i giocatori rappresentano delle fazioni abbastanza caratterizzate. Nel primo, che si chiama Terra Mistica, che è un gioco tra l'altro una vera novità perché è stato pubblicato quest'anno alla Fiera di Essen ed uscirà in anteprima in versione italiana al Play Festival del Gioco in aprile, ogni giocatore rappresenta una fazione in lotta con le altre per cercare di trasformare il mondo nella maniera più adatta alla propria fazione. Ogni fazione ha un territorio su cui vive meglio, ad esempio le sirene nell'acqua, i nani nelle montagne, e scopo del gioco, diciamo essenzialmente la meccanica principale del gioco, è che uno deve trasformare il territorio per cercare di creare più posti possibili adatti alla sua fazione. Su questi posti può costruire degli edifici che possono essere case, locande, diciamo, e templi, oppure anche la fortezza e l'oracolo, e in base a questi edifici ottiene punti e riesce a fare cose. Ha una meccanica carina che mi piaceva molto, la sentivo di attualità, perché le fazioni sono in competizione, però costruire i propri edifici vicino a quelli delle altre fazioni costa meno ed è più facile. Quindi da un lato c'è la lotta a occupare il territorio e sconfiggere gli altri, ma dall'altro anche la collaborazione, quindi. Esatto. Certo. Quindi mi piaceva, viene prodotto in Italia dalla Cranio Creation. Bene, questa è Terra Mistica, si intitola così. L'altro gioco, sempre che mi piaceva perché si parlava di fazioni e mi collegavo all'idea dei capi di queste fazioni, è un gioco che si chiama Cyclad, che rappresenta la lotta ai tempi, diciamo, della Grecia per controllare le isole Cicladi. E la cosa carina di questo gioco è che il meccanismo di gioco viene fatto tramite, tra virgolette, l'adorazione di una divinità. Cioè nel proprio turno ogni giocatore deve offrire la sua benevolenza, i suoi soldi a una divinità, e in base a quale divinità riesce a aggiudicarsi può fare un certo tipo di azione. Ad esempio, se io voglio costruire delle flotte dovrò pregare Poseidone, mentre se voglio fare della battaglia di terra dovrò pregare Marte, se voglio sviluppare la mia saggezza, i miei tempi, dovrò rivolgermi ad Apollo. E quindi c'è questo meccanismo carino, perché ogni turno ci sono tante divinità a disposizione quanto sono i giocatori, e ogni giocatore se ne deve scegliere una, e in base a quella può fare determinate cose. Questo gioco Cyclad è prodotto in Italia da Asterion Press. Diciamo non facilissimi, però dopo aver giocato una partita le meccaniche diventano immediate. Sono proprio giochi molto adatti, secondo me, anche a una serata dopo cena con gli amici, a una famiglia con dei bimbi grandi, a con per bimbi piccoli. Ecco, bene, grazie come sempre davvero Andrea per la tua competenza, e vi ricordo anche il sito che è ludologo.com. Come sempre buon gioco, perché so che tu la domenica la passi anche così con i tuoi figli e non soltanto. Ciao. Esatto, ciao Stefano, buona domenica a tutti. E dopo i giochi in scatola è il momento invece di parlare di videogiochi. Ricordate l'affascinante Lara Croft, protagonista di Tomb Raider, archeologa ed eroina dei videogiochi, nonché splendido personaggio interpretato al cinema da una perfetta Angelina Jolie? Bene, dimenticate tutto, perché è ora di ripartire. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Tomb Raider, chiamato erroneamente da qualcuno Tomb Raider 9, è un reboot di una serie di videogiochi di grande successo, ovvero un rilancio in grande stile, che segna un netto distacco dai titoli precedenti, per ridare vita nuova a un personaggio, a mio avviso, sempre affascinante. Le vicende di questo nuovo Tomb Raider, quindi, non sono collegate a quelle raccontate nei titoli precedenti. Qui la nostra eroina parte dall'inizio. Ricca figlia di un noto archeologo, Lara decide di vivere un'esperienza personale imbarcandosi sull'Endurance per un viaggio alla ricerca della flotta perduta di Kublai Khan, il fondatore del primo impero cinese. Finalmente potevo lasciare il segno. Partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Purtroppo per Lara, la spedizione viene bruscamente portata fuori rotta da una violenta tempesta che spezza letteralmente in due la Endurance, lasciando la nostra eroina alla deriva di un'isola all'interno del Triangolo del Drago, una misteriosa regione situata agli antipodi del Triangolo delle Bermuda. Nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. E qui ha inizio il bello del gioco. Bello perché Lara è spaventata, sperduta, vera. È coraggiosa ma impreparata a un simile evento. E l'isola è davvero piena di insidie. Molti puzzle da risolvere, più difficili rispetto a quelli del passato. Molte le zone che non possono essere perlustrate fino all'acquisizione di capacità che Lara col tempo apprenderà. Questo nuovo Tomb Raider è davvero strepitoso. Bello, avvincente, coinvolgente, spaventoso, emozionante e capace di spingere i giocatori a identificarsi con le paure della protagonista. Aiuto! Giù, devo scendere! Non morirò così. Disponibile per Xbox, PlayStation 3 e PC, Tomb Raider è consigliato a un pubblico maggiorenne e da parte mia consigliato a tutti, anche a chi gioca raramente. Un titolo davvero ben riuscito. Brava Lara, questa è veramente una rinascita vincente. Sono qui! Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica, io sono tra salumi, formaggi, miele, marmellate. Ciao Davide, ci sentiamo domenica prossima, grazie. Che è successo? Ma no, sto scherzando, che mi fai venire voglia di mangiare tutto qua. Sì, sono qui tra profumi e sapori, guarda, c'ho un piatto di prosciutto stagionato 30 mesi sotto il naso. E ho sentito che parlate di movimenti, sì. Il movimento del cibo continua in maniera incredibile, qui ci sono orde di gente che stanno per entrare per assaggiare un po' di tutto, quindi è un movimento, non direi che è un movimento, non faccio riferimenti politici, però è un movimento in grande crescita sicuramente e devo dire che l'interesse verso il cibo di qualità non cala assolutamente. Qui c'è una selezione strepitosa di 283 produttori che arrivano da tutta Italia, c'è proprio tutta l'Italia rappresentata, il meglio del meglio, e vedi appunto queste file davanti a questi produttori che sono lì in attesa di annusare, di mangiare, di bere, quindi è uno spettacolo, non è uno spettacolo, anche se poi magari piove, purtroppo. Vabbè, non importa, quello è il meglio, qui siamo dentro. Ma è dentro o fuori, scusami, la situazione? No, è dentro. Ora anche è smesso di piovere, quindi non c'è questo problema. No, dicevo che il movimento del cibo è sicuramente ancora in grande crescita, io non so fino a quanto durerà, perché in questo paese è una delle poche cose che funziona. E qui ci sono moltissimi stranieri, i quali si chiedono come mai questi prodotti non arrivano all'estero, e credo che questo sia un grossissimo problema. Noi ci lamentiamo della nostra economia, però se si facesse qualcosa per quello che funziona in questo paese forse sarebbe molto meglio, perché ad esempio il cibo è molto trascurato, tutto si parla di altri settori, ma questo che potrebbe essere veramente l'ambasciatore della nostra produzione non è preso in grande considerazione. Ma è possibile che sono anni che si dice sempre questa cosa qui, quindi niente venga fatto? Sai, a Roma ora stanno per arrivare nuovi, speriamo che siano questi, perché se ad esempio in Cina il governo francese è da anni che lavora per aprire la pista ai propri produttori di vino Infatti poi ce la fanno, no? Imporsi, sì, è ovvio. I nostri tutt'al più arrivano a San Marino e non vanno oltre, pure in Vaticano. O sulla mia tavola, quindi, ecco. Sulla tua tavola. Credo che molti politici dovrebbero venire a vedere cosa c'è, qual è la realtà questa italiana, e parlare un po' con questi artigiani, i quali si lamentano perché non hanno nessuno che li aiuti, perché collettivamente potrebbero essere portati all'estero, visto che orde di politici, ordine di assessori regionali, orde di assessori provinciali e comunali girano il mondo non si sa per quale motivo, e se facessero invece questi soldi fossero investiti per portare, far conoscere queste realtà, forse questo paese andrebbe molto ma molto meglio. Concordo con te, grazie Davide, goditi tutto quello che hai davanti agli occhi e chiaramente poi assaggialo anche per noi almeno. Test poi dura fino a lunedì sera, quindi si può entrare fino a lunedì sera a godere di questa realtà. Grazie ancora, ciao, domenica prossima, domenica, ciao, domenica ciao, ciao. C'è Modigliani, 24 minuti. Modigliani in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra a Milano, Modigliani, gli artisti di Montparnasse, e anche due biglietti d'ingresso, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Dovete scoprire cosa hanno in comune Modigliani e questa canzone. Un po' barbacariana la voce di Karima, Just Walk Away, questa è la canzone. Cosa hanno in comune questa canzone o Karima con Modigliani? Dovete dirmelo voi, 800 24 00 24. Strade in diretta. Resta invariata la situazione a Bologna, dove il traffico è molto intenso sulla 14 Adriatica per l'afflusso al Cosmoprof. C'è coda tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Bologna-Fiera e verso Ancona. Sempre in direzione Ancona, altre code in uscita allo svincolo di Cattolica per traffico intenso. Trafficata anche l'Autosole, si rallenta tra Roncobilaccio e Calenzano verso Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova verso Milano tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia. Sulla 26 dei trafori ricordiamo che è chiusa in entrambe le direzioni l'uscita di Baveno per una manifestazione sportiva. Sulla 25 Torano-Pescara difficoltà in uscita allo svincolo di Bussi Popoli per una manifestazione. Infine si ricorda che a Roma oggi sino alle 18 c'è il blocco ecologico della circolazione all'interno della fascia verde. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Maria da Pavia, ciao, buona domenica Maria. Buona domenica. Eccoci qua. Allora, noi abbiamo sentito una canzone che è Karima con Just Walk Away, e questa canzone o Karima hanno qualcosa a che fare con Modigliani. Tu sai rispondere a questa domanda? Che cosa hanno in comune? No, veramente no. Sono nati tutte e due a Livorno? Eccola là, certo che sì. Perché hai detto veramente no? No, perché non avevo finito di leggere bene. Sì, Karima è nata a Livorno e così anche Modigliani, per cui quella è la risposta giusta. Brava Maria, ti porti a casa il catalogo della mostra e anche i biglietti d'ingresso. Grazie. Buona domenica, ciao, ciao, grazie. Piero, dalla provincia di Rimini. Pronto? Pronto? Piero, ciao, ciao. Lo sapevo anch'io. Ti hanno fregato la risposta, immaginavo. Però ti garantisco che la prossima è molto facile. È molto più facile di questa, ok? Attento alla canzone, eccola qua. Ogni notte che passa un dolore, e lo so che anche tu ci stai male. Falso, ho bisogno falso di te, ne ho bisogno, che voglio gridare al mondo. Vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita. Falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero. Vero che sei la sola, vero che ti ho dannata. Falso, se non è stato un successo di Paolo Meneguzzi, questa Vero Falso, così si intitola. Io so, Piero, che non devo neanche farti la domanda, perché tu sai già darmi la risposta. Piero. Guarda, mi prendi, io ero talmente... Aspetta, ti aiuto un attimo, perché adesso l'ho data così per scontato, però ecco. Allora, questa canzone, capito come si intitola, Vero Falso? Sì. Ok, Paolo Meneguzzi è il cantante e noi stiamo parlando di Modigliani. Sì. Quindi cos'è che ti viene in mente? Non ti faccio neanche la domanda, perché tanto di la risposta... quelle due sculture che hanno trovato nel canale? Era facilissimo. Avevano ingannato anche uno. Insomma, critico d'arte italiano. L'abbiamo intervistato anche nel tempo fa, al Riposo del Guerriero, uno degli autori dei falsi, sì, Modigliani. Sì. E proprio così, insomma, non poteva che venire in mente quella questione di cui si parla ancora oggi. Grazie ancora, Piero. Tu parli come un restauratore, quindi queste cose qui. Esatto, bravo. Che bel mestiere che fai. Sì, sto lavorando, sono in bottega e sto lavorando anche stamattina, visto che il tempo è incerto, ne approfitto per poi utilizzare il tempo libero quando ci sarà del tempo, visto che abito a Rimini. Ah, guarda, quando uno fa il restauratore, secondo me il tempo libero non esiste, perché comunque c'è sempre qualcosa da mettere a posto, per cui alla fine si sa sempre come impegnarlo. Grazie Piero, buona domenica. Prego. Ciao, per te il catalogo e i biglietti d'ingresso. Davide da Roma, buongiorno Davide. Buongiorno, ciao Stefano. Allora, in questa volta invece la canzone che sto per farti ascoltare ha a che fare col titolo di un'opera di Maurice Utrillo, che era tra gli artisti di Montparnasse e era conosciuto per i suoi paesaggi urbani. Ti aiuterò chiaramente molto, ma è facile. Ascolta questa canzone. Là tutto fa colore, rifiuti e povertà. Qui non è mai Natale, la noia pietà, sporchi stracci senza sorte, morte dove sei, tanto non lascerai, sei figlio della strada ormai. l'altro Renato Zero è appena uscito con il nuovo album, questo invece è una canzone di molti anni fa, si intitola Periferia. Allora, Davide. Sì. Difficile. No, non è difficile, perché Maurizio Trillo era famoso, è famoso per i paesaggi, e allora abbiamo a che fare, insomma, la canzone è appunto scritta La Periferia, quindi diciamo che nel titolo del quadro c'è anche questa parola, va bene? Ah, cos'è che ti può venire in mente? Non è periferia to court e basta, ma c'è un elemento, è un edificio. Quale edificio può essere, secondo te, ritratto in questo quadro di Maurizio Trillo? È un edificio solo. È un edificio sì. Utilizzato per... Beh, non te lo posso, se te lo dico, hai già capito che edificio è. Insomma, guarda che tu cosa immagini? In una periferia cos'è che puoi trovare? Così, così solitaria... Potrei una cascina, un capannone. Quindi, un... capannone, cascina di periferia, eh? Un casale. Casale di periferia, ecco, questa è la tua risposta. Casale. Il casale di periferia, giusto? Ecco. No. Sì. Sì, è il casale, un casale. Sì, no, sei stato molto chiaro. Il titolo è di periferia, e quel non è casale, ma è un'altra cosa. Ah. Mi dispiace, Davide. Ciao. Va bene. Ciao. Cosa devo fare? Marta, dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Marta. Sai ciao, che, vabbè, ciao. Allora, che cosa può essere quell'edificio lì in periferia? Mamma mia. La roba di periferia. Non è una casa. Non è la casa di periferia. Mi dispiace. No, e neanche la mazurka di periferia, quella era cosa dei. Grazie, ciao. Di niente, ciao, grazie a te, ciao. Ciao Marta, però sei messa a ridere con la canzone. Antonio da Salerno, ciao Antonio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora Antonio, cos'è che può essere di periferia, questo edificio di periferia? Che quale? Io non posso dire, abbiamo detto non è un casale, non è una casa, ma è... Un aiuto. Più di così, guarda... Ma sta in un quadro di Trillo? Sì, sì, esatto, beh, certo, è un quadro famoso suo, né di periferia. Che sta a che fare con Montparnasse? Sì, salendo, cioè, salendo su Montparnasse si trova un edificio simile. Quello salendo su è un po' più grande di quello ritratto nel paesaggio di Trillo, però, insomma... È di periferia, è piccola, quindi è... non è una casa, ma è una... niente, non viene in mente. Una bottega? È la bottega di periferia. No, scusa Antonio, rido, perché quando sentirai la risposta, sì. Ti darai proprio così... Ciao, ciao Antonio. Come Tafazzi, hai capito? Stessa cosa. Gioia da Livorno. Gioia. C'è un bel problema. Sì, com'è sì, un bel problema, Gioia? È un bel problema, sì, perché non riesco a individuare cosa possa essere. Cosa può essere? Ma, guarda, è veramente una cosa difficile. È facile, ma di una semplicità oggi. Riposo, cioè, c'entra, ha a che fare anche con l'oggi, con la giornata di oggi. Di più non posso dire, però, perché sennò vi do la risposta. Certo. Dammi questa gioia, Gioia, rispondi. Telefonato subito perché sono livornese, sapevo che erano livornesi tutte e due. Quello è vero, cioè, però guarda che guarda Gioia, credimi, è proprio facile. Dai, ti do ancora 10 secondi. 9. 8. Niente, non ti viene in mente questo edificio in periferia, cosa può essere? Niente. No, proprio non ti viene. Quando sentirai la risposta domenica prossima, ti arrabbierai con te stessa. Per forza, adesso non la do la risposta. Grazie Gioia, ciao, buona domenica. Cosa devo fare? Darvi appuntamento domenica prossima alle 10, puntuali con Riposo del Guerriero. In redazione grazie a Giorgio De Luca, grazie all'assistenza di Guido Scotti, Carmelo Lauricella in regia e voi, come al solito, all'ascolto. Restateci ovviamente qui su Radio 24. Buona settimana da Stefano Gallarini.